notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Resta chiusa anche domani la borsa di Atene, così come le banche. Si sta valutando un prestito ponte, fanno sapere i socialisti europei. Oggi Eurogruppo e poi Consiglio europeo per capire come procedere, mentre si attendono le nuove proposte di Tsipras. Avrebbe chiesto un prestito da 7 miliardi. In arrivo la relazione di Gabrielli sulle infiltrazioni criminali a Roma, sistema di appalti clientelare anche fuori dall'inchiesta. Intanto scontro tra il sindaco e i macchinisti della metro, lavorano meno che a Milano e Napoli, dice. Crolla una palazzina a Taranto, forse dopo un'esplosione per una fuga di gas. I feriti sono 4, una vittima accertata, ma si cerca anche un bambino che potrebbe essere rimasto sotto le macerie. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura dunque quest'altra giornata complessa per i destini della Grecia, con l'Eurogruppo che sta iniziando in questi minuti e dedicato appunto al dopo referendum ellenico. Una giornata che viaggia tra Atene, Bruxelles e Strasburgo, dove ha parlato il presidente della Commissione Juncker. Iniziamo proprio dalla capitale greca, dove è un'altra giornata di chiusura per le banche, che resteranno in questa condizione almeno fino a giovedì, così come la borsa. Valeria De Rosa, nostra inviata ad Atene, buongiorno. Buongiorno Simone, allora lo raccontavi proprio qualche istante fa nei titoli, l'ultima da Atene sarebbe che il presidente Tsipras avrebbe chiesto un prestito ponte da 7 miliardi, un prestito da avere immediatamente nelle prossime 48 ore, perché ricordiamo che oltre alle scadenze esterne Tsipras deve ovviamente anche far fronte a quelle che sono le scadenze interne del paese. Ci sono 1,5 milioni di pensionati che devono riscuotere la pensione, 650.000 dipendenti pubblici e poi ci sono circa 6 miliardi di arretrati che il governo greco deve ai fornitori. Lo raccontavi tu, le borse saranno chiuse almeno fino a giovedì, le banche forse fino a venerdì, e per aiutare i greci in questo difficile momento, visto che quello di oggi è il 7° giorno consecutivo di chiusura degli istituti di credito, i mezzi pubblici continuano ad essere gratuiti, e per quel che riguarda la dichiarazione dei redditi, che doveva essere presentata a fine luglio, questo termine è stato posticipato, al momento non si sa fino a quando, quindi è immaginabile che in questo momento i greci non stiano pagando le tasse. Il clima in città continua ad essere un clima relativamente tranquillo, addirittura oggi le code agli sportelli bancomat sono anche diminuite, quindi diciamo che la popolazione sta cercando di affrontare nel migliore dei modi possibile, certo, queste giornate molto difficili, che continuano ad essere molto difficili per il paese. Da Atene per il momento è tutto. Grazie Valeria De Rosa. Si diceva appunto borsa chiusa ad Atene, non nel resto d'Europa, i mercati non chiusi nel resto d'Europa, dove continuano a sentirsi i riflessi di quello che sta avvenendo. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, allora cominciamo proprio con la borsa di Atene, che rimarrà chiusa anche nella giornata di domani e potrebbe riaprire giovedì, lo ha deciso proprio poche ore fa la Commissione dei Mercati Capitali, una misura che segue anche quella annunciata ieri per le banche, che appunto come dicevate rimangono ancora chiusa ancora fino a tutta la giornata di domani. Le decisioni comunque è anche vero che vengono prese giorno per giorno, per cui si valuterà la riapertura prossimamente appunto a seconda delle indicazioni che arriveranno dalle trattative in corso. Per quello che riguarda il mercato europeo, il resto d'Europa oggi viaggia di nuovo in negativo. Questa mattina c'era stato un tentativo di recupero che era stato messo a segno soprattutto per Milano, ieri in assoluto lo ricorderete la peggior piazza d'Europa con un calo di 4 punti, stamattina è arrivata più 0,9 e poi ha fallito l'obiettivo, adesso riscende di nuovo meno 0,36%, sono un po' più pesanti i cali delle altre piazze europee, Parigi sta lasciando sul campo quasi un punto, Francoforte meno 0,7, Londra in ribasso dello 0,14%, Madrid perde oltre mezzo punto percentuale, quindi questa dimostrazione che il nervosismo non si è affatto stemperato. Peraltro stamattina anche l'euro è sceso sotto 1,10 rispetto al dollaro. Un'altra notizia da segnalare è l'esito di un'asta di bund decennali, quindi di titoli di Stato appunto tedesche a scadenza decennale. Oggi era prevista questa asta da 810 milioni di euro e il rendimento chiesto dal mercato è stato negativo per circa 0,5 punto percentuale. La seconda volta che accade nel giro di pochi mesi, era già successo a maggio, ma questa è la dimostrazione di come gli operatori stiano tornando a ricercare beni rifugio, anche se questo atteggiamento non si trasferisce sull'oro e sul franco svizzero, ma si rivà di nuovo tutti in Germania. Lo spread fra BTP e Bund, a proposito di questo, è a 163 punti base. Simone, per il momento direi che è tutto. E grazie Deborah Rosciani per questi aggiornamenti. Si sta riunendo in questi minuti l'Eurogruppo, mentre la Banca Centrale Europea fornisce dettagli sulla liquidità di emergenza fornita alle banche tedesche. Questo è quello che si muove in questi minuti sul quadro europeo. Facciamo un punto proprio su questo con Livia Zancanerra. Livia, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, come dicevi tu, sta iniziando in questi minuti la riunione dei ministri delle finanze europei. Sul tavolo il nuovo piano di Alexis Tsipras, come chiesto da Angela Merkel e François Hollande. Per Atene parteciperà, ricordiamo, il neo ministro Tsakalotos, che ha sostituito il dimissionario Varoufakis. Dai leader europei prima del vertice arrivano parole di apertura, a patto che le proposte greche siano serie, concrete e vadano nella direzione giusta. Entrando poco fa all'Eurogruppo, il presidente Dijsselbloem ha detto che la situazione è difficile, ma faremo di tutto per mantenere unita l'Eurozona. Le nuove proposte devono essere però credibili e portare a una soluzione. Sulla stessa linea il numero uno della Commissione Europea Moscovici: nessuno vuole la Grexit, ha detto, ma le autorità greche ci devono spiegare bene come evitare uno scenario che noi non vogliamo. Le ragioni di un accordo comunque sono superiori. E l'intesa potrebbe prevedere un prestito ponte, su cui è già al lavoro lo stesso Juncker, ha annunciato stamattina il capogruppo dei socialisti al Parlamento Europeo Pittella. A seguire con attenzione i lavori, ovviamente, c'è anche la BCE. Mario Draghi è presente all'Eurogruppo. La Banca Centrale per ora ha deciso di non tagliare i fondi di emergenza alle banche greche, però gli istituti devono essere solvibili e con problemi di liquidità solo nel breve termine, ha ricordato questa mattina proprio Francoforte. A intervenire poi nella notte anche Stati Uniti e Russia. Parlando con Hollande, il presidente americano Barack Obama ha ribadito che è necessario trovare un'intesa al più presto sulla Grecia. Ed è tutto, a te Simone. Grazie Livia Zancaner, che ci ha aggiornato anche su quello che si sta dicendo sulle mosse del presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, che questa mattina è intervenuto nell'Europarlamento. Nous aurons un autre conseil européen sur ce qu'il est convenu d'appeler la Grèce. Il governo greco ci deve dire come si vuole districare da questa situazione. Bastano poche parole a Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, per far capire la sua posizione. Sono contrario alla Grexit e cercherò di evitarla fino alla fine, dice Juncker. La Commissione farà in modo che riprendano i negoziati. Tuttavia, se allunga la mano ad Atene, i toni sono fermi e orgogliosi quando, senza citarlo, risponde l'ormai ex ministro Varoufakis. Sono stato eletto, dice Juncker, non mi farò dare del terrorista. Certamente rispettiamo il referendum, ma continua, ma non ho capito che cosa è stato chiesto ai cittadini, visto che il popolo greco ha votato no su un testo che non è più sul tavolo. Ora, continua, servono proposte concrete. La situazione non si risolve in una notte. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo dunque è il quadro dalla Grecia e dall'Europa. Veniamo al fronte italiano. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Prima Ginevra, quindi nel pomeriggio Bruxelles. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi si avvicina alla ripresa della partita tra Europa e Grecia, assicurando che l'Italia ha fatto e farà la sua parte. Ma avverte il Premier, dopo gli ultimi sviluppi drammatici è finito il tempo dei rinvii e le parole d'ordine per la Grecia devono essere valori e politica, non più solo parametri e numeri, perché fermi e prigionieri di regolamenti e burocrazie l'Europa è finita. Bisogna insomma ricostruire un'Europa diversa. Gli esempi di questo tipo di approccio sono già tanti, ricorda Renzi parlando questa mattina al CERN di Ginevra. È questa l'Europa che ci piace. Sentiamo allora il Premier. Si lavora insieme, che quindi ciò che viene fatto al CERN è probabilmente il punto più avanzato nel mondo e dimostra che c'è un'Europa inclusiva, larga, che si apre ai contributi degli Stati Uniti, della Russia, della Cina, che però ha il coraggio e la voglia di costruire un domani fatto di curiosità e non di paure. ma c'è anche chi nel governo è meno diplomatico. È il caso del ministro degli esteri Gentiloni, che dice la Grecia è fuori dai parametri e non per colpa dei tedeschi cattivi, ma per responsabilità delle leadership che si sono succedute ad Atene negli ultimi 15-20 anni. Dell'esperienza greca parlano anche le opposizioni. Questo sistema non va, dice Grillo, l'Italia torni alla lira, un referendum sull'Europa anche in Italia, chiede infine Brunetta di Forza Italia. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Ed è di oggi il rapporto del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia, nel quale si sottolineano anche i rischi di impatto della crisi greca sul nostro paese. Sta riemergendo l'Italia a poco da una prolungata recessione, ma la ripresa è lenta e fragile, misura le parole il Fondo Monetario Internazionale per riconoscere al nostro paese una ripresa lagging, che resta indietro, la più debole nell'area euro. E questo è il titolo del periodico rapporto sul l'Italia del Fondo Monetario Internazionale, rilasciato questa mattina a Washington. 70 pagine dettagliate, frutto anche di incontri ai massimi livelli, in cui si premette che l'Italia crescerà a un tasso dello 0,7% nel 2015, un leggero miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime di primavera, grazie ad alcune riforme chiave. Prima fra tutte il Jobs Act del governo Renzi, che l'FMI dice determinato, le misure per rafforzare banche e PMI, chiamate giustizia per la crescita, e l'aiuto della manovra della BCE. Ma resta nelle pagine il tuttavia. Le prospettive di medio termine, si legge però, sono tenute a freno da colli di bottiglia strutturali, alta disoccupazione al 12,5%, bilanci deboli e un debito pubblico elevato. L'FMI spinge per passare dall'agenda di governo, che definisce ambiziosa, all'azione, priorità alla riforma della PA e i suoi lunghi tempi, e dare impulso a crescita e quindi a disoccupazione, conti pubblici. Il punto debole è sempre lo stesso: il debito in Italia è sostenibile al 133,3% nel 2015, poi calerà, ma è fattore di vulnerabilità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo quest'ampia pagina economica e di politica economica, veniamo alla cronaca, che però in questo caso si intreccia con la politica. Oggi il prefetto di Roma Gabrielli riunisce il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Al centro il caso di Roma, la relazione sulla città, le infiltrazioni della malavita, un rapporto centrale per capire anche le sorti della giunta Marino. Che cosa ne sappiamo, Raffaella Calandra? Buongiorno. Sì, buongiorno. Questo è il primo passaggio prima della decisione sullo scioglimento o meno. In questo limbo Roma trema, possiamo dire, nonostante le temperature di questi giorni. L'appuntamento è per le 15 in prefettura, quando davanti al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Franco Gabrielli anticiperà a grandi linee le conclusioni della relazione da inviare al Viminale. Dovrà in sostanza dire se, analizzati gli atti su Mafia Capitale e quelli recuperati direttamente in Campidoglio, ci siano o meno gli estremi per chiedere al ministro il commissariamento dell'amministrazione capitolina. E a Palazzo Valentini prenderà la parola anche il procuratore Giuseppe Pignatone, già passato attraverso lo scioglimento del comune di Reggio Calabria. In punta di diritto, il punto cruciale è la discussione sull'aggravante mafiosa non contestata agli amministratori, ma questo vuol dire che sono immuni dai condizionamenti, come stabilisce la legge sullo scioglimento, oppure e questi condizionamenti esistevano comunque, anche se i politici non sapevano che Buzzi e le sue cooperative facessero capo al clan di Massimo Carminati? In realtà, al di là degli atti giudiziari e delle contestazioni penali sul fronte degli appalti, il quadro che emergerebbe è la ripetizione di uno stesso sistema anche in altri settori. Un sistema in cui i contatti personali e i ganci giusti contano più di ogni procedura burocratica. Un mondo di mezzo popolato di facilitatori di lavori, per dirla con le parole del RAS delle cooperative. Ma questo porterà allo scioglimento dell'amministrazione capitolina? In realtà il prefetto potrebbe chiedere anche soltanto la rimozione di qualche funzionario, e anche il procuratore aveva già detto davanti all'antimafia come il clan avesse avuto comportamenti diversi a seconda delle due diverse giunte, Alemanno e Marino. E quindi la domanda è proprio questa, Raffaella, quindi a questo punto sembra piuttosto improbabile, come anche sembrava risultare all'inizio, insomma, fino a qualche tempo fa, fino a che se ne è parlato, sembra piuttosto improbabile che si arrivi ad uno scioglimento del Comune di Roma e ad un commissariamento. Allora, ci sono diversi passaggi. Questo di oggi è il primo passaggio, dove sicuramente il parere del procuratore è un parere, diciamo, importante ma non vincolante. E poi appunto ci sarà la richiesta del prefetto, che avrà una sua matura, una sua idea sulla base della cosiddetta relazione d'accesso, quindi tutto quello che gli allegati, tutto quello che è stato raccolto in Campidoglio oltre agli atti giudiziari, che insomma sembrerebbero ricostruire un quadro quadro non proprio, diciamo, sereno e limpido al 100%. Il problema però è che lo scioglimento è un passaggio ulteriore, richiede delle caratteristiche ben precise a norma di legge, bisogna verificare se questi ci siano o meno. Dopo la giornata di oggi che cosa succede? Succede che Gabrielli manda la sua relazione con la sua conclusione alla Viminale. A quel punto il ministro Alfano dovrà decidere se concordare o meno con la conclusione di Gabrielli e eventualmente coinvolgere anche Palazzo Chigi nel caso soprattutto ci dovesse essere l'ipotesi di uno scioglimento. A questo momento sembra non esserci questa ipotesi, ma non è così scontato. Grazie alla nostra Raffaella Calandra. Ancora notizie da Roma, ci raccontano di una sorta di sciopero bianco che ha fatto andare la metro di Roma a rilento per l'intera giornata. Ieri il sindaco Marino è intervenuto su YouTube, c'è un forte scontro con una parte dei macchinisti. Marino dice lavorate meno dei macchinisti di Napoli e di Milano e quindi dovete lavorare di più. Ne parleremo più avanti. Mentre invece, a proposito invece di criminalità organizzata, c'è una storia che arriva da Bari, dove questa mattina c'è stata una maxi operazione contro le organizzazioni criminali locali. Sono una quarantina le persone arrestate nel corso di un blitz dei carabinieri. Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti anni di egemonia e di dominio in una serie di settori dell'economia, primo fra tutti quello idile, nel quale gli imprenditori erano costretti a pagare il pizzo a due clan, quello degli Strisciuglio, tra i quali molti sono finiti in manette oggi, e quello dei Di Cosola. Nessun cantiere era esentato, anche quello di una scuola elementare in costruzione nella zona di Palese. Il clan usava, si è appreso oggi, i loculi del cimitero per nascondere armi e munizioni e imponeva il pizzo anche agli ambulanti, ai concerti e allo stadio. Adesso c'è il traffico, ci ritroviamo subito dopo e resteremo in Puglia per andare però a Taranto, dove c'è stata un'esplosione, come vi raccontavamo nei titoli, e c'è almeno una vittima. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Resta chiusa anche domani la Borsa di Atene, così come le banche. Si sta valutando un prestito ponte, fanno sapere i socialisti europei. Tsipras avrebbe chiesto 7 miliardi. Oggi l'Eurogruppo e poi il Consiglio europeo. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan dice: noi siamo costruttivi, spero che lo siano anche i greci. E Dombrovskis, il commissario, dice: senza misure credibili l'uscita della Grecia all'euro non è esclusa. E in arrivo, come avete sentito, la relazione di Gabrielli sulle infiltrazioni criminali a Roma, un sistema di appalti clientelare anche fuori dall'inchiesta. Intanto c'è lo scontro aperto tra il sindaco e i macchinisti della metropolitana, lavorano meno che a Milano e Napoli, dice. E veniamo ad una vicenda di cronaca, un'esplosione che c'è stata questa mattina a Taranto, probabilmente per una fuga di gas, e c'è almeno una vittima al momento. Chiedo conferma al sindaco di Taranto, Ipazio Stefano, che è in linea con noi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Che notizie abbiamo? Purtroppo c'è una vittima e ci sono dei feriti, uno abbastanza in condizioni serie, ricoverato al centro ostioni di Brindisi, e quattro stranieri ricoverati all'ospedale di Taranto, più una tarantina ricoverata sempre all'ospedale di Taranto. Ci conferma, sindaco, sono circolate voci piuttosto incontrollate sul fatto che ci fosse anche un bambino sotto le macerie in queste ore? No, assolutamente no, queste sono le notizie ufficiali ad ora, quindi nel modo più assoluto. Gli altri 16 abitanti del palazzo stanno bene, e il comune era pronto a ospitarli, ma hanno, diciamo, avuto preferito essere accolti da parenti. Quindi noi probabilmente ospiteremo soltanto gli stranieri, se non hanno dove poter andare. Cosa, probabilmente una fuga di gas, no, sindaco? Sì, certamente sì, una fuga di gas. È crollata completamente tutta la scala, è una cosa, voglio dire, a vedersi veramente impressionante e traumatizzante. L'opera dei soccorritori, cioè dei vigili del fuoco, della polizia di Stato, carabinieri, tutti presenti, vigili urbani, finanza, tutti presenti, Croce Rossa, la ASL, il 118, hanno dato immediato soccorso alle persone, e che almeno ha avuto il conforto delle istituzioni in questo momento di grande sofferenza. C'è un'altra domanda che le voglio fare, visto che la ho in linea su tutt'altro argomento, però un argomento che vi riguarda strettamente e vi sta molto a cuore, Sindaco, ed è evidentemente l'ILVA. Allora, ieri noi abbiamo raccontato ampiamente ai nostri ascoltatori di quello che stava succedendo proprio nella mattinata di ieri a Fincantiere di Monfalcone, dove si sta procedendo al dissequestro dell'impianto. Nel pomeriggio gli operai sarebbero tornati al lavoro. Nel frattempo succedeva qualcosa anche all'Ilva di Taranto, ossia veniva riacceso l'Alto Forno 2, no? Sì, veniva riacceso l'Alto Forno, però come tutti sono stati informati, ci sarà una commissione con gli organi tecnici e con la magistratura provvederà a mettere in fretta in atto tutti quei provvedimenti che devono garantire la sicurezza sul lavoro. Quindi non è un'autorizzazione a continuare incondizionata, ma è un'autorizzazione a continuare con la produzione a patto che ci siano degli interventi urgenti che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in primo luogo e naturalmente della città. E proprio in questi minuti viene battuta una dichiarazione del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, il quale si dice su Ilva in questo momento sono meno fiducioso rispetto a Fincantieri. Lei com'è, fiducioso oppure no? Che Ilva possa continuare, possa riprendere? Qui non è in gioco soltanto la città di Taranto, è in gioco la nostra nazione, è in gioco la possibilità di rimanere nel settore dell'acciaio oppure essere completamente esclusi. Il governo si è impegnato, lo ha dimostrato con atti concreti e lo ha dimostrato con l'ennesimo decreto che ha voglia di continuare a credere nella siderurgia italiana, cioè a credere di poter produrre acciaio naturalmente rispettando, difendendo la salute dei lavoratori, dei cittadini e difendendo il lavoro. Quindi io continuo ad avere la certezza che l'impegno di tante professionalità e delle istituzioni tutte possono far continuare a far essere la siderurgia italiana fiore all'occhiello, perché è una siderurgia che garantirà il rispetto dell'ambiente, della salute e il lavoro e opportunità di lavoro. Io ho fiducia che in questo impegno profuso dal governo non sarà vano. Grazie a Di Pazio Stefano, sia per gli aggiornamenti di cronaca sia per averci risposto alle domande su Ilva. Sindaco di Taranto, la ringrazio, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Veniamo alle cose che stanno succedendo a Roma. Allora, vi abbiamo parlato poco fa del prefetto di Roma Gabrielli, che oggi riunisce il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ci sarà poi la relazione, vedremo che cosa succederà in merito allo scioglimento del comune. Intanto, nel frattempo, si alza lo scontro tra il sindaco di Roma Ignazio Marino e una parte dei macchinisti. Una parte dei macchinisti della metropolitana di Roma nei giorni scorsi, per una forma di protesta nei confronti dell'azienda, ha deciso di andare sostanzialmente a rilento. Sentite che cosa ha detto su YouTube il sindaco Marino. Questo probabilmente accade perché ho preteso che da poche settimane i macchinisti della metropolitana timbrino il cartellino in entrata e in uscita, così come fanno tutte le persone che nella nostra città vanno al lavoro la mattina e tornano a casa la sera. Noi abbiamo diritto di avere una metropolitana, anzi tre metropolitane, che funzionano come quelle di una capitale di un paese del G7. E trovo anche inaccettabile che a Milano i macchinisti guidano 1100 ore l'anno, a Napoli 950 e a Roma solo poco più di 700 ore l'anno. Questo va cambiato nell'interesse della città. Micaela Quintavalle è presidente del sindacato Cambiamenti M410 e autista dell'ATA, che alcuni macchinisti aderenti al suo sindacato hanno deciso di partecipare a questa protesta. Quintavalle, ci spiega perché, se le cifre sono quelle date dal sindaco? Allora, innanzitutto le dichiarazioni del sindaco sono vergognose, perché con queste dichiarazioni va ad armare l'utenza nei nostri confronti. Non ci sono scioperi bianchi, se ci fosse stato uno sciopero bianco noi saremmo passibili di denuncia per interruzione di pubblico servizio, dal momento che ciò non è avvenuto. Però qualcuno che è andato un po' più lento c'è. Non si tratta di andare al rilento, si tratta di seguire le norme per la sicurezza. Noi puntualmente, per offrire un buon servizio alla cittadinanza, ci prendiamo delle responsabilità che non ci competono. Per esempio, facciamo circolare dei mezzi anche del 1931 che dovrebbero essere chiusi in deposito, e facciamo puntualmente turno orario straordinario, più ordinario, perché c'è una carenza di personale viaggiante che è impressionante. Nel momento in cui il lavoratore fa solamente ciò che gli compete, l'azienda crolla, e crolla perché non abbiamo mezzi adeguati, perché non abbiamo personale. Chi danneggia l'immagine aziendale non sono gli autoferrotrambieri, è la commissione politica, sindacato, le vertici aziendali che da anni vogliono dimostrare che il servizio per funzionare debba solo essere privatizzato. La cosa delle ore è inesatta. È inesatta perché significherebbe come voler pagare un medico solo quando opera in sala operatoria e non si sta osservando delle analisi cliniche. Quintavalle, ma un macchinista che deve fare? Cioè, deve occupare anche dell'accudienza treno e delle manovre all'interno dei depositi, quindi fa 4 ore sul treno e più di 2 ore per l'accudienza. Fare 6 ore e 20. Bravissimo, come facciamo noi fare 6 ore e 20 all'interno delle gallerie di Roma con tutte quelle polveri sottili significherebbe portare il lavoratore verso patologie invalidanti. Io ora non conosco le gallerie di Napoli, di Milano, non so se tutte le 6 ore vengono fatte però mi scusi, lo stacco tra Milano e Roma è praticamente doppio, abbia pazienza, cioè stiamo parlando di 1200 ore contro 750. Ora mettiamo che una parte non sono lavorative. Nel senso che le ore che lavorano l'autoferrotrambiere da contratto nazionale fa sempre quelle ore, da noi gli viene data una parte sul treno e una parte per fare altre mansioni. Prima di aumentare le ore, io vorrei vedere qualsiasi cittadino a quale viene aumentato l'orario di lavoro e tolto 400 euro dalla busta paga. Però a me risulta che l'azienda abbia portato l'orario settimanale da 37 a 39 ore, esclusi i conducenti. No, i conducenti di autobus al momento ora stanno puntando il dito contro i macchinisti, hanno cominciato con amministrativi e quarta area, poi saranno carne da macello di tutti gli autoferrotrambieri. In realtà per risanare questa azienda bisogna tagliare i dirigenti che sono in esubero, tagliare gli amministrativi che sono in esubero, reinternalizzare i servizi, comprare autobus, comprare treni. Se il servizio è scadente non è colpa dei conducenti, è colpa dei dirigenti e dei politici. Mi scusi Quintala, perché ci sono una serie di altri elementi, no, che riguardano l'ATAC. Le faccio un esempio: il fatto che, come è avvenuto per il Comune di Roma, e questa è una vicenda che abbiamo raccontato, come è avvenuto per il Comune di Roma, il salario accessorio è diventato, invece che un incentivo alla produttività, di fatto un pezzo del salario medesimo. L'azienda ha deciso di tagliare, di farla finita con tutto questo e di legare alla produttività questi salari. Quindi, come dire, secondo me si rende conto quanto è grave quando noi abbiamo dei... Ma com'è grave? Mi scusi, il salario accessorio è accessorio per definizione. Ho capito, ma salario accessorio noi prendiamo anche, cioè un accessorio per esempio è quando tu eviti un sinistro e ti danno 1,20 euro per aver evitato un sinistro, quando rischi ogni giorno di andare a casa per aver ucciso una persona pur essendo innocente. Ma mi scusi Quintale, ma evitare un sinistro, cioè evitare un incidente io credo che sia, come dire, una parte normale del lavoro, mi perdoni, magari mi sbaglio io. Qui stanno facendo saltare la contrattazione di secondo livello e non esiste, perché comunque lo stipendio da decenni è fatto di particolari voci, stanno facendo saltare tutte quelle voci per cui ci vogliono far guadagnare quanto una persona che non ha le nostre responsabilità, mentre i dirigenti che prendono stipendi milionari continuano a prenderli anche se non raggiungono io sto parlando con lei che rappresenta i lavoratori, no? Certo. Se i conducenti continueranno a lavorare 37 ore come da orario di prima, però si chiede di aumentare le ore di guida parificandole per esempio a quelle di Napoli. Io non vedo dov'è il problema, davvero. Glielo dico io, che noi non siamo in ufficio, qui ci deve essere attenzione concentrata. Togliendo tutta la contrattazione di secondo livello, con era 1, era 2, ci stanno dicendo che perderemo dei soldi qualora noi ci metteremo malati, qualora noi non assisteremo il nostro parente disabile, significa lavorare quasi sette ore e un quarto, come fa magari un comune impiegato che però ha mezz'ora di tempo per andare in pausa pranzo, che però può andare in bagno quando vuole, che se ha il pensiero rivolto verso un parente disabile, è impossibile che non abbiate pause da contratto, su. Bravissimo, non abbiamo pause da contratto, noi abbiamo 3 minuti a capolinea e dobbiamo scegliere, perché abbiamo il satellite che altrimenti ci registra e ci arriva il rapporto disciplinare, dobbiamo scegliere se mangiare un panino, prendere un caffè o parlare con il nostro caro. Come vede, siete assolutamente male informati, male informati. Allora, guardi, facciamo una cosa, nei prossimi giorni a questo punto io intanto la ringrazio anche per il calore che ci mette, quindi evidentemente ci tiene. Male pare. La ringrazio per il calore che ci mette e magari nei prossimi giorni sentiremo anche l'azienda su tutto questo, perché è giusto sentire tutte e due le parti come spesso facciamo. Magari invece si pronunciano su tutto questo, anche perché insomma i dati che loro sostengono sono là, voglio sentire qualche dettaglio in più. La ringrazio, grazie a Micaela Quintavalle, presidente del sindacato Cambiamenti M410 e autista dell'ATAC. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, faremo un breve punto sui mercati e poi parleremo, sentiremo un servizio sulla relazione annuale dell'autorità garante per le comunicazioni, dalla quale emerge ancora una volta il ritardo italiano sulla velocità di internet, per così dire, in particolare sulla banda ultralarga. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'uscita della Grecia dall'euro sarebbe un errore, un fallimento collettivo, lo dice il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici all'arrivo all'Eurogruppo, mentre parla anche il ministro tedesco Schäuble. Chi conosce i trattati sa che il taglio del debito è vietato. Nel frattempo ad Atene resta chiusa anche domani la borsa, così come le banche. Si sta valutando un prestito ponte, Tsipras ne avrebbe chiesto uno da 7 miliardi. E ne arrivo alla relazione di Gabrielli sulle infiltrazioni criminali a Roma, un sistema di appalti clientelare anche fuori dall'inchiesa, questo quello che si delineerebbe. Intanto è scontro, come avete sentito, tra il sindaco e i macchinisti della metropolitana, lavorano meno che a Milano e Napoli, dice. Crollata una palazzina a Taranto, forse probabilmente dopo un'esplosione per una fuga di gas, i feriti sono almeno 4, alcuni gravi. C'è una vittima, un uomo di 55 anni al momento, lo avete sentito anche questo, il sindaco di Taranto Ipazio Stefano esclude che ci sia un bambino sotto le macerie, come era circolato almeno inizialmente. Alla borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E siamo, come già vi si accennava, alla relazione annuale dell'autorità di garanzia per le comunicazioni. Una arretratezza preoccupante, un ritardo colossale. L'allarme arriva dalla relazione annuale dell'autorità garante nelle comunicazioni presentata in Parlamento. Sulla banda larga l'Italia registra un livello di copertura del 36% contro il 68% dell'Unione Europea a 28 e di conseguenza un divario digitale doppio rispetto a quello europeo e con situazioni regionali che arrivano anche al 100%. Una relazione che conferma dunque quanto già denunciato qualche mese fa e che tratteggia anche un nuovo annus horribilis per il macro settore delle comunicazioni in Italia, in crisi ormai dal 2010. Nel 2014 il settore registra in totale un valore di 52,4 miliardi di euro, il 5,9% in meno rispetto al 2013. In 5 anni i quotidiani e radio TV hanno perso 2 miliardi di ricavi per effetto della digitalizzazione. Per il presidente Angelo Marcello Cardani, la televisione, che grazie alla sua funzione di intrattenimento mantiene comunque una posizione importante, con Sky regina dei ricavi, la quota è del 34,1%, seguita da Mediaset e Rai. I quotidiani soffrono di un declino strutturale, ma il fenomeno generalizzato a livello internazionale, dice Cardani, richiede un'attenzione specifica a livello nazionale, trattandosi di servizi che perseguono obiettivi di interesse pubblico e sociale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Due notizie di cronaca prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade. Innanzitutto quella che la Guardia di Finanza si è presentata questa mattina negli uffici del settore tecnico del comune di Vercelli. Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno effettuando alcune perquisizioni e hanno acquisito 3 computer fissi, un PC portatile e un faldone di documenti. Non abbiamo ancora altri dettagli, vedremo cosa succederà nelle prossime ore. L'altra notizia è che sempre la Guardia di Finanza ha scoperto una presunta maxi frode fiscale transnazionale a Milano con imposte evase per 70 milioni di euro. Era un'associazione a delinquere che commercializzava prodotti per l'elettronica. 19 gli arresti e le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Monza, Pierangela Renda. Il traffico.